in primo piano. Buona giornata, buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Naturalmente l'ultima settimana di campagna elettorale in vista del voto per le europee domina le prime pagine dei giornali, prime pagine che andiamo a raccontarvi in ordine un po' sparso. Allora cominciamo dalla Stampa: l'anti-Europa, l'assalto dell'Europa, si vota tra 8 giorni, crescono i populisti, scrive il quotidiano torinese. Quotidiano torinese che poi presenta anche nelle pagine interne un interessante sondaggio che riguarda proprio la nostra percezione dell'Europa. Italiani e europeisti con riserva, così viene intitolato l'articolo affidato a Daniele Marini dell'Università di Padova. Per 3 cittadini su 4, ci informa la Stampa, uscire dall'euro sarebbe un guaio per l'economia, ma le misure anticrisi imposte dall'Unione Europea al nostro paese generano perplessità. E proprio sull'euro è una delle domande riassunte nella grafica del quotidiano di Torino. Per più del 20% l'euro ha prodotto solo vantaggi, per il 57%, percentuale largamente maggioritaria, l'euro ha creato qualche complicazione ma è necessaria all'Europa, e ha creato solo complicazioni per il 22,4%. Quindi sull'euro c'è perplessità, ma nessuno, appunto più del 77%, guardando questi numeri che propone oggi la Stampa, più del 77%, quindi 3 italiani su 4 sono convinti che non ci sia una alternativa alla moneta, al percorso della moneta unica. L'orientamento europeista, il 36% si dice europeista convinto, si dice invece anti-europeista il 14%, e il 40% si definisce europeista flebile. Poi ci sono gli scettici, che sono una percentuale inferiore al 10%. Questo il profilo. Marini stesso sulla Stampa scrive: siamo diversamente europeisti, non desideriamo fare a meno dell'Unione Europea e dell'euro, ma nello stesso tempo vorremmo rinegoziare il vincolo economico che ci lega o ci strozza. Questo, in sintesi, l'orientamento degli italiani rilevato dall'ultima indagine LAST, CMR Intesa San Paolo, per la Stampa. Non mancano in questi anni di crisi le spinte a uscire dall'Unione e abbandonare l'euro, ma fino a che punto l'opinione pubblica considera simili prospettive come una effettiva exit strategy? L'indagine dice sostanzialmente che questa posizione è minoritaria. Così su la Stampa quest'oggi. Naturalmente le parole, come dire, abbastanza in libertà dei comizi di ieri dominano le prime pagine dei giornali. Il Giorno, ad esempio, Quotidiano Nazionale, dedica la sua prima pagina, il suo titolo più importante, alla frase di Beppe Grillo: Grillo, sono più di Hitler. Comizio shock del comico Renzi, certe cose non si dicono neanche per scherzo. E il Premier poi ironizza su Beppe Gufo: se ce la faccio io, ce la fa l'Italia. Questa è l'apertura del Giorno. Mentre sul Messaggero, ma a centro pagina, e vi dirò tra un attimo perché a centro pagina, Renzi: fuori i politici corrotti. Come avete sentito nel corso del giornale radio, ha parlato di un DASPO, di una misura appunto restrittiva per i politici corrotti, il Presidente del Consiglio, e poi duello in piazza con Grillo, di cui viene riportata la frase di ieri, il leader del Movimento 5 Stelle, che ha detto: sono oltre Hitler. In prima pagina del Messaggero, oltre alla segnalazione di questo accordo molto importante, di questa intesa molto importante tra Google e Apple, che hanno firmato una tregua legale, stop agli scontri in tribunale, e quindi hanno sostanzialmente firmato una pace rispetto alle liti che li contrapponevano per l'utilizzo dei brevetti dei loro diversi sistemi operativi. Ma il titolo più importante del Messaggero è dedicato a una intervista a Padoan, il ministro dell'economia, che annuncia un piano per le imprese. Il ministro dell'economia annuncia un pacchetto di investimenti, un pacchetto, chiedo scusa, su investimenti e competitività. La frenata del PIL, del prodotto interno lordo, non cambia lo scenario. Cederemo immobili di Stato e municipalizzate. Torniamo tra un attimo su questa intervista interessante sul Messaggero al ministro dell'economia. Il secolo XIX di nuovo sui comizi, Grillo, la volata degli insulti, il leader del Movimento 5 Stelle offende Merkel e Schulz, poi avverte, dico se carabinieri sono con noi. Una vignetta carina del secolo XIX in prima pagina intitola un po', sintetizza i toni della campagna elettorale che potremmo dire con un eufemismo sono sempre più accesi, li sintetizza così, parla di trash finale e quindi al posto di rush finale appunto trash finale. Questo sul secolo XIX, che però dà spazio ed è l'unico quotidiano di quel che abbiamo potuto vedere questa mattina anche all'alluvione che è intervenuta in Bosnia e Serbia. Bosnia e Serbia sott'acqua chiedono aiuto, i Balcani in ginocchio dopo 4 giorni di inondazioni. La notizia sul secolo XIX, richiamata in prima pagina da una grande foto, parla di migliaia di sfollati e che hanno dovuto abbandonare le proprie case completamente sommerse dall'acqua. Sono in arrivo aiuti dalla Russia, dalla Slovenia, naturalmente dall'Unione Europea e da Israele. Non pioveva in questo modo da 120 anni in quella parte di territorio. Il Corriere della Sera. A centro pagina il titolo con la maggiore forza della prima pagina, Grillo, piazze piene e insulti. Comizio a Torino, Digos, Dia e Carabinieri con noi, il premier che appunto Matteo Renzi che ha detto su certi temi non si scherza. Offese a Merkel, io non sono Hitler, sono oltre Hitler. Questa è la frase riportata appunto anche dal Corriere della Sera su Beppe Grillo. E ancora per chiudere questa velocissima rassegna di alcune delle prime pagine. Il Sole 24 Ore che parla, resta ancora sulla crescita mancata. Ieri, come sapete, è stata presentata questa inchiesta sulle mancate opere, le mancate riforme che bloccano in qualche modo la possibilità di crescita del paese. E oggi la puntata, l'approfondimento è sulle grandi opere al palo. Italia ultima nell'Unione Europea, un boom di ritardi. In 15 anni sono state finite soltanto 11 opere su 37 che erano state giudicate prioritarie. Dal 2004 fino al 2013 c'è stato un calo nelle grandi opere del 19,6%. Nello stesso periodo, cioè 2004-2013, in Germania c'è stato invece un aumento di investimenti del 31%, ma se il dato tedesco può non stupirci per via della maggiore forza economica indubitabile di questo paese, anche però in Francia c'è stata invece una crescita del 26% e nel Regno Unito del 19%, appunto nelle grandi opere. Il lavoro poi viene presentato nella pagina 3 con articoli di Giorgio Santilli, di Alessandro Arona e di Mauro Salerno. Il titolo poi della pagina interna è proprio sulle infrastrutture, ricorda appunto quanto vi leggevo già dalla prima pagina. Negli ultimi 10 anni abbiamo speso meno di altri paesi europei, dal 2009 sostanzialmente si è perso il 30%. E soltanto 11 opere, come vi segnalavo, su 37 infrastrutture strategiche sono state messe in funzione e addirittura, segnala Giorgio Santilli, sempre 12 non sono nemmeno partite oppure sono bloccate. Questo sul Sole 24 Ore, il titolo di apertura, il titolo principale del Sole 24 Ore. Vediamo qualche altro giornale, cambiamo anche, diciamo, gli orientamenti editoriali sull'università. di nuovo i comizi, ma naturalmente la posizione che viene segnalata dal quotidiano fondato da Gramsci è quella del Partito Democratico. Il Partito Democratico nelle piazze sfida Grillo. Renzi fa campagna in Emilia, se ce la fa il governo, ce la fa anche il paese. E al capo dei 5 Stelle dice: il tempo dei pagliacci è finito. L'ex comico sbraita e poi il titolo a centropagina dell'Unità: io oltre Hitler, insulti al comizio contro Renzi e Schulz. Volgarità a sfondo sessuale contro Merkel. In un crescendo delirante, la titolazione dell'Unità, dice: Carabinieri, Digos e Dia sono con noi. Ancora una ventina di secondi prima di ascoltare le previsioni del tempo. Dal Libero sceglie invece una diversa titolazione principale: Casa si cambia, ecco come, e riepiloga i contenuti del decreto Casa, che domani arriva al voto finale, decreto dove appunto dovrebbero ampliarsi il bonus mobili e ridursi la cedolare secca. In primo piano. Bentornati alla nostra rassegna stampa, ancora una buona domenica da Mauro Meazza. Come vi dicevo nella prima parte di questa trasmissione, la temperatura che sale nei comizi prende grande spazio sulle prime pagine di molti giornali quest'oggi, ma noi ci sforziamo, come dire, di trovare anche qualche altro spunto, magari se mi consentite, meno farneticante di qualche dichiarazione che si è ascoltata anche nella giornata di ieri. E allora stiamo sulle cose di tutti i giorni e del nostro prossimo futuro. Dal Messaggero, intervista al ministro dell'economia Padoan, l'intervista realizzata da De Paolini, che chiede diverse cose al ministro. Tra l'altro, il ministro annuncia una serie di misure per le imprese. Gli chiede De Paolini: saldo totale dei debiti pregressi della pubblica amministrazione, 80 euro di minor tasse in busta paga. Molti dubitano che possano bastare a imprimere velocità al volano. E le riforme, quand'anche fossero realizzate in tempi brevi, faranno sentire il loro effetto solo più avanti. Come pensate di sostenere la crescita? Risponde Padoan: con altre misure di effetto immediato. Per esempio, insieme agli altri ministeri economici abbiamo in preparazione un pacchetto di provvedimenti finanziari destinati alle imprese. Arriverà entro poche settimane. Agiremo sul lato degli investimenti, ma anche su quello della riduzione dei costi. L'obiettivo è imprimere forza alla crescita e aumentare la competitività delle nostre aziende. Quindi, in poche settimane, sono le parole del ministro che appunto rilascia questa intervista al Messaggero. Il ministro dell'Economia annuncia un pacchetto di ulteriori misure a effetto immediato, quindi dobbiamo presumere un decreto legge per sostenere le imprese. E poi naturalmente il commento sui dati non buoni, gli ultimi dati sulla crescita del paese, il prodotto interno lordo, proprio dalla prima domanda. Il primo trimestre, gli si chiede, con l'indicatore del prodotto interno lordo che è tornato sotto lo zero, si è rivelato una sorpresa negativa. Dobbiamo rivedere tutte le previsioni? La risposta del ministro è no. Un rallentamento dello 0,1 non cambia il quadro generale, a maggior ragione se si tratta di un fenomeno ampio, visto che, a esclusione della Germania, un po' tutti i paesi europei segnalano debolezza. Dobbiamo semplicemente prendere atto che l'uscita dalla grande recessione è molto faticosa. Lo incalzano però con un'ulteriore domanda, lo incalza Osvaldo De Paolini: anche le esportazioni non vanno bene, stanno calando da almeno 3 mesi. Spiega Padoan: sono una voce dello stesso fenomeno che segnala una economia globale più debole. Dobbiamo però considerare che all'interno del fenomeno, quantomeno per l'Italia, vi sono aspetti positivi. Per esempio, è il giudizio del ministro dell'Economia, la produzione industriale sta migliorando, sia pure a macchia di leopardo. In fase di miglioramento è anche la fiducia dei consumatori. E poi un altro annuncio che riguarda le privatizzazioni. Dopo naturalmente la decisione di venerdì di collocare in borsa il 40% di Poste, il 49% di Enav, dice il ministro: abbiamo un programma vasto di proposte da veicolare al mercato. Enav e Poste sono le prime due operazioni di un elenco non breve. altre ce ne saranno entro la fine dell'anno. L'intervista naturalmente è molto più lunga, vi ho letto alcuni passaggi, come dire, a mio insindacabile giudizio, che passaggi che mi sembravano più importanti. Questo appunto sul Messaggero, l'annuncio del ministro Padoan di interventi a favore delle imprese. Torniamo sulle prime pagine di altri giornali. Per Repubblica, Repubblica decide di dare il suo titolo principale all'intervento che dovrebbe accompagnare sia la nomina di Cantone come commissario all'Expo per come dire, far uscire i lavori per la manifestazione che si terrà a Milano l'anno prossimo dall'impasse dovuto alle inchieste in corso, quindi corruzione, giro di vite, annuncia Repubblica, torna il falso in bilancio, più poteri a Cantone e saranno corrette anche le norme sulla prescrizione. Poi nello stesso titolo, ma riportato più in piccolo, nel sommario, come si dice, il Premier che ha parlato di Daspo ai corrotti, ai politici corrotti, e Grillo che insulta la Merkel. Questo sulla prima pagina di Repubblica. Repubblica, come altri giornali nelle pagine interne, Repubblica decide di richiamarlo anche in prima pagina, il caos Tasi. Per i lettori del Sole 24, gli ascoltatori di Radio 24, non è una grande novità. Come sapete, il 16 di giugno è fissata la prima scadenza di questa nuova imposta, il tributo così sui servizi indivisibili, però i comuni sono in ritardo nel varare le regole di prelievo, non sono chiare neanche, come dire, le modalità precise con cui bisogna votare. Sul Sole 24 Ore, perdonerete la partigianeria, ma lo diciamo già da diverse settimane, adesso si parla di una proroga della tassa, anche se i comuni proprio in questi giorni si sono mostrati contrari, hanno detto di essere contrari a una proroga della scadenza del 16 giugno perché avrebbe effetti deleteri sui bilanci. Tutto questo viene riassunto da Repubblica in prima pagina. Caos Tasi, comuni in ritardo appunto sull'approvazione delle regole verso la proroga della tassa, e vedremo se poi questa proroga prenderà corpo nella prossima settimana, appunto per uscire dall'impasse, dal problema appunto di gestire questa imposta nuova, la Tasi. Poi ricordiamo che c'è anche da versare, poi nella stessa scadenza ci sarà anche da versare l'IMU, perché l'IMU sulla prima casa, come sapete, non è più dovuta, ma rimane appunto sugli immobili commerciali, sulle imprese, sulle seconde case. Cambiamo argomento, almeno in parte, perché restiamo sulle questioni di Expo. Avvenire che riporta delle dichiarazioni del ministro dell'interno Angelino Alfano: un Expo mafia free e il decreto legge IRPEF cambierà, quindi cambiamenti per i famosi 80 euro. Alfano dice c'è un rischio di infiltrazioni, dice all'Avvenire, pieni poteri a Cantone. Queste le dichiarazioni quindi dal ministro dell'economia che abbiamo segnalato dal Messaggero, alle dichiarazioni di Alfano rilasciate in un'intervista ad Arturo Celletti su Avvenire di oggi. Cantone è l'uomo giusto, diamogli poteri veri, ha detto il ministro Alfano, costruiti su misura e facciamo in fretta, manca un anno al via, non possiamo sbagliare. Il decreto IRPEF cambierà, lo pretendiamo, il riferimento qui è al decreto appunto degli 80 euro, gli 80 euro per i quali appunto il ministro dell'interno dice dobbiamo inserire appunto sgravi e sostegni alla natalità, anche perché un paese senza bambini, dice, un paese senza futuro, un paese a crescita demografica zero non può costruire nulla per il domani. Questo come misura del futuro. Sull'immediata correzione del decreto IRPEF gli si chiede qual è il progetto, risponde Alfano: un single che guadagna 1500 euro al mese prende il bonus, una famiglia che ne prende 1501 è esclusa, questo è ingiusto, anzi assurdo, e allora voglio essere chiaro, l'impianto va cambiato, il bonus va cambiato, chi ha due figli e guadagna 1800 euro al mese deve poterci contare, e così avanti, tre figlie 2200 euro al mese di reddito, marito, quattro figli, eccetera. Insomma, il riferimento di questa ridda di cifre che viene ricordata dal ministro dell'Interno sostanzialmente è al famoso quoziente familiare. Appunto, come sapete, in Italia il fisco non prevede un quoziente familiare. L'erogazione del bonus degli 80 euro da maggio fino a tutto il 2014 è legata al reddito personale. Questo fa sì appunto che ci siano delle famiglie che possono accedere al bonus e altre che non possono, pur essendo in condizioni molto diverse. E allora chiede Alfano di tornare a quello che poi era il progetto originario di questo bonus, almeno secondo alcune bozze che erano circolate, cioè di tenere conto anche dei cosiddetti carichi di famiglia. Un'altra citazione rapidamente di sapore economico da Avvenire, perché Pietro Saccò in una pagina interna ci ricorda che sono già 10 mesi che sono cominciate le trattative per la Transatlantic Trade and Investment Partnership. La cosa magari non è di grande richiamo, ma è molto importante, cioè sono gli accordi di libero scambio tra gli Stati Uniti e l'Europa, e infatti la titolazione ce lo ricorda: tra Stati Uniti e Unione Europea, quel libero scambio che cambierà l'economia globale. Si sa ancora pochissimo appunto dei contenuti di queste trattative. Domani riprendono i negoziati, però ci sono diversi scogli da superare. Tra l'altro ricorda proprio questa pagina di Avvenire che l'intesa potrebbe portare 120 miliardi di euro alla crescita proprio nell'Unione Europea. Ci sono però 18 mesi ancora fissati per concludere il negoziato, quindi non saranno senz'altro misure imminenti. E allora 5 secondi ancora, solo naturalmente per annunciarvi che stiamo per ascoltare il traffico. In primo piano. Bentornati, buona domenica ancora da Mauro Meazza. Ultima tranche della nostra rassegna stampa, la segnalazione degli articoli riportati con maggiore evidenza sui quotidiani di oggi, e anche qualche segnalazione appunto dalle pagine interne, specialmente di notizie magari meno evidenziate invece nelle prime pagine. Restiamo sulle elezioni europee, ma questa volta non per occuparci della temperatura politica e delle dichiarazioni di ieri nei comizi. Il Fatto Quotidiano mette l'accento nel suo titolo principale sul voto notturno, che significa, dice, paura astensione, il voto notturno fa infuriare tutta l'Europa. Questo il richiamo della prima pagina. Il senso di questo richiamo è che noi italiani voteremo fino alle 23 e a Bruxelles ce l'hanno con noi, scrive il Fatto, perché chiudiamo i seggi troppo tardi, i risultati delle europee arriveranno quindi di notte. Come sapete, il voto per le europee si svolge su più giorni, alcuni paesi cominciano a votare già da giovedì e poi via via si arriverà fino appunto alle 23, alle nostre 23, quando si chiuderanno i seggi. Peraltro, come sapete, la decisione di votare in una sola giornata è stata una decisione recente in nome della spending review, cioè dei risparmi di spesa, e quindi la decisione è stata presa dal governo guidato da Letta, che ha stabilito appunto che le elezioni si terranno solo la domenica dalle 7 alle 23. Secondo appunto la ricostruzione di Stefano Feltri, questa appendice serale di questa ora rispetto alle 22, ora abituale di chiusura, è stata fatta nella speranza di contenere i danni ed evitare che l'astensionismo esploda, finendo per penalizzare soprattutto il PD di Renzi. Nel 2009, ad esempio, alle europee votò il 65% degli aventi diritto, stavolta dovrebbero essere ancora meno. Gli ultimi sondaggi quotano l'astensionismo al 37%, questo è un dato molto importante, anche perché questo Parlamento che si elegge, questo Parlamento europeo che si elegge con questo voto, è il primo per cui poi valgono le indicazioni del Trattato di Lisbona, indicazioni che ad esempio dicono che i governi nazionali non potranno più scegliere in autonomia chi sarà il Presidente della Commissione europea, ma dovranno tenere conto del risultato elettorale, quindi del Parlamento europeo. Perciò l'astensionismo in questa fase sarebbe particolarmente mal riposto, ci permettiamo di dire, perché si vota per eleggere un Parlamento che ha maggiori poteri, un Parlamento europeo che ha maggiori poteri rispetto a quelli che lo hanno preceduto. Ma torniamo allora alla vicenda segnalata dal Fatto. Questa chiusura alle 23 sostanzialmente costringe, scrive Stefano Feltri sul Fatto Quotidiano, gli altri 27 paesi ad aspettare la notte per divulgare i risultati e quindi dovranno, come dire, attendere che il voto italiano sia concluso per poterci dire quali saranno le proiezioni del voto sull'Europarlamento, voto che naturalmente prevede anche l'incognita non solo dell'astensionismo ma anche dei cosiddetti euroscettici in Italia ma anche in altri paesi. Restiamo sulla la stampa e sulla questione dei comizi perché appunto ieri abbiamo ascoltato una serie di dichiarazioni decisamente sopra le righe, per non dire di peggio, ma come sapete la par condicio ci impone in qualche modo una sorta di terzietà. E allora vi segnalo però dalla Stampa, senza darvene lettura, una raccolta di perle da vari candidati, ci sono un po' candidati di tutti gli schieramenti e appunto con le dichiarazioni rese citando qua e là o questioni storiche o anche questioni di cronaca, Genia Carogna e quant'altro. La collezione di queste perle da comizio è fatta da Mattia Feltri, è sulla Stampa pagina 7. Vi ripeto, il regime di par condicio, nel senso le regole della par condicio ci impongono in qualche modo di mantenere una sorta di equidistanza, però certamente non la lettura di queste frasi non, decisamente non storiche, ma sentite in campagna elettorale, fa un po' riflettere, oltre che vabbè, magari sorridere. Attacchi, insulti e bizzarrie da campagna elettorale, domenica prossima si vota e il clima è sempre più teso. C'è un commento di Andrea Colombo sul Manifesto di oggi, manifesto che ricorda la manifestazione che si è svolta ieri contro le privatizzazioni e per i beni comuni, nel suo titolo più evidente di prima pagina, ma sempre in prima pagina Andrea Colombo commenta questa crescita, questa salita di toni, di temperatura nella campagna elettorale con un articolo che è intitolato "Ma chi ha sciolto l'LSD nell'acqua?" e dice appunto: certe volte in questa campagna elettorale sorge il dubbio che qualche vecchio hippie sia riuscito a viaggiare nel tempo e nello spazio per realizzare proprio qui in Italia il sogno dei freaks americani degli anni 60, inondare di acido lisergico, appunto l'LSD, le tubature nei palazzi della politica per poi godersi lo spettacolo, fumandosi una canna magari, alla faccia di Carlo Giovanardi. Questo il commento, e poi appunto prosegue nelle pagine interne, ad esempio con questa frase: nel paese che alla ridente, in senso ironico, esperienza del fascismo europeo ha dato i natali, per esempio, la marcia su Roma parrebbe una minaccia che a nessuno dotato di buon senso verrebbe in mente di agitare, pena un discredito tombale. Qui invece sgomitano per aggiudicarsi la palma del primo marciatore. Ecco, questa è una parte del commento di Colombo. Ripeto, la campagna elettorale ha ancora 5 giorni davanti, decisamente rispetto ai temi europei siamo andati un po' oltre, anche con citazioni storiche assolutamente peregrine. Sempre dalla Stampa invece una notizia che in realtà sta anche su altri giornali e che è tra le ultimissime che vi segnaliamo in questi 2 minuti, neanche 2 minuti che ci restano: l'appello delle donne che amano un prete, rivedere il celibato. C'è stata una lettera al Papa Francesco che appunto da un gruppo di donne che da tutte le parti d'Italia sta vivendo o vorrebbe vivere o ha vissuto una relazione con un sacerdote di cui è innamorata, e in questa raccomandazione, riferisce Andrea Tornielli sulla Stampa, che è stata spedita in Vaticano, c'era un cognome con dei recapiti telefonici, raggruppava le posizioni di 26 donne di diverse età, sentimentalmente legate a preti, e donne che chiedono al Papa di rivedere il celibato sacerdotale obbligatorio. Però Bergoglio si è già espresso appunto contro la doppia vita dei sacerdoti, ha già fatto capire che appunto, la sua posizione non è quella di rivedere il celibato. Questo sulla Stampa. E allora chiudiamo invece in questo minuto scarso oramai che ci resta con una citazione della Gazzetta Sportiva. Perché? Perché oggi c'è questa storica finale appunto della Errani, che Sara Errani che va a sfidare la incredibile Williams, e quindi oggi gioca contro la Williams a Roma. Non succedeva da 64 anni, ricorda la Gazzetta Sportiva. E poi la vittoria nella Liga di Simeone, il volo del Ciolo, l'Atletico Madrid che si è aggiudicato appunto lo scudetto in Spagna, e oggi sarà appunto l'ultima giornata, invece da noi scudetto già assegnato. Bene, è tutto per oggi, ancora una buona domenica, grazie a Carmelo Lauricella in regia per l'assistenza di questa mattina, e a risentirci domani nel corso della trasmissione di Alessandro Milan.